anche Lady Gaga, ieri a Milano per il concerto, spinge Roberto Formigoni alle dimissioni. Con quelle giacche io Formigoni me lo porto in tournée. Se ci sarà spazio e occasione farò ancora politica, altrimenti vedremo, non è obbligatorio. Hey.